che vivere così non è quello che volevi tu. E non è giusto credere che lui ti dica sempre quello che tu vuoi, che tu vuoi. E adesso non ce la fai più, alzati e vai da lui. E non nascondere che vuoi ridere per i fatti tuoi. Giovane, bella e così forte, gioiello chiuso in cassaforte. Ma attraversare queste porte no, non è impossibile, se solo tu lo vuoi. E vieni via con me, vieni via con me, vieni via con me, vieni via con me, ed io sarò per te quello che tu vuoi. E saprò farti ridere anche quando il cielo che ho dipinto per noi non sarà così blu. Vieni via con me, vieni via con me. Guardo nei tuoi occhi e vedo che odio, amore fanno lacrime. Tra vita e morte non trovi la via, sei nel fiume, ne segui la scia. Ed ora è l'ora di scattare, adesso basta ragionare. E l'apatia non è l'amore, lascialo andare il tuo dolore. Passerò bello e solitario in queste mura il tuo calvario. Bagni di lacrime il tuo cuore, dentro quel letto non c'è amore. E vieni via con me, vieni via con me, vieni via con me, vieni via con me, ed io sarò per te quello che tu vuoi. E saprò farti ridere anche quando il cielo che ho dipinto per noi sarà così blu. Vieni via con me, vieni via con me.